Guardo il mondo da fuori, guardo il mondo che corre, sei tu inizio e fine, sei tu la vita, l'amore. Guardo il mondo che cambia, guardo il mondo che soffre, sei tu inizio e fine, sei tu la vita, l'amore.